Allora, La Bianca Scienza è una raccolta in realtà di appunti, è un libro molto agile perché sono poco più di 60 pagine, che vuole raccontare alcuni degli aspetti coloniali che sono, come dire, connaturati all'impresa scientifica. Questo mi è venuto in mente di provare a scrivere, di documentarvi perché. Io faccio il giornalista scientifico da 20 anni e parlando con tantissimi colleghi, ma anche con scienziati e scienziate, mi sono reso conto che molto spesso non è chiaro che l'imperialismo hanno avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione della scienza come la conosciamo oggi. E quindi ho provato a capire se era possibile raccontare un po' di spunti per provare ad aprire una discussione su questo tema, insomma, che era appunto l'eredità coloniale della scienza moderna. E se vuoi ti faccio due esempi molto semplici che possono far capire in che modo questa eredità è ancora viva. Noi conosciamo benissimo gli orti botanici di tutto il mondo, che sono raccolte di specie di piante che vengono dai quattro angoli del pianeta. Ecco, quelle raccolte sono figlie dell'imperialismo, cioè figlie del fatto che gli grandi imperi, come quello britannico, come quello francese, nel corso dei secoli hanno conquistato territori in altri continenti e hanno sottratto risorse botaniche che poi hanno cercato di sfruttare commercialmente. Ecco, gli orti botanici sono un esempio, soprattutto quelli nati appunto nel 700, nel 600, nel 700, sono esempi di collezioni scientifiche nate sotto la spinta sì di conoscere il mondo, di studiarlo dal punto di vista scientifico, ma anche di sfruttarlo commercialmente. Quindi c'era un forte interesse da parte degli imperi, non soltanto dell'Accademia delle Scienze, per sfruttare queste conoscenze. Ci sono anche delle figure che hai conosciuto, cui sei venuto a conoscenza facendo le ricerche per questo libro, che ti sono rimaste particolarmente impresse. Ma guarda, più che una figura in particolare, mi vengono in mente proprio intere classi, interi gruppi di persone che hanno avuto un ruolo fondamentale. Anche per esempio pensando alla vicenda italiana, perché l'altra cosa che ho capito è che in Italia ci dimentichiamo molto spesso che anche noi abbiamo avuto un impero coloniale e che non è stato un impero coloniale che è nato soltanto con il fascismo, ma è cominciato ben prima, è cominciato alla fine dell'Ottocento con il governo De Pre. Ecco, anche in quel caso lì, la nostra esperienza coloniale è stata quella di provare a esportare il nostro modo di vivere e la nostra conoscenza scientifica presso una popolazione come quella, per esempio, dell'Eritrea, della Somalia, che secondo il punto di vista della classe dirigente dell'epoca italiana non erano abbastanza civilizzati e avanzati dal punto di vista, per esempio, agricolo. E quindi si è cercato di esportare il nostro modo di produrre. Questo modo di produrre è stato proprio sottolineato, proprio arrivato all'apice durante il periodo fascista, ma ormai ci sono degli studi che mostrano come aver provato ad esportare un sistema produttivo che non è pensato per i territori e i climi africani, ma è pensato per quelli europei, ha significato mettere alla fame molte migliaia di persone. Quindi c'è un esperimento non soltanto di estrazione, no, di conoscenza e di capitale conoscitivo dalle popolazioni locali, ma anche un tentativo di imporre una propria visione del mondo, una propria visione produttiva. E quindi alla fin fine, tutto sommato, se si volesse riassumere tutto il discorso in poche parole, c'è una questione capitalista sotto alla questione imperialista, alla questione scientifica che andrebbe discussa più in profondità. Ci sono degli autori o delle autrici a cui hai fatto riferimento nella scrittura? Allora, c'è una persona che è una collega giornalista a cui ho fatto molto riferimento, che si chiama Angela Saini, e lei è una giornalista britannica che ha scritto due libri per me fondamentali. Uno si chiamava Inferiori e raccontava il modo in cui la società moderna ha tenuto sotto scacco le donne per secoli e continua a farlo per certi versi. E l'altro si chiama invece Superiori e ha guardato al modo in cui l'impero britannico in particolare ha guardato alle popolazioni non europee come appunto inferiore, quindi sentendosi superiore. E sono stati due racconti per me fondamentali perché Angela Saini racconta le origini storiche del patriarcato da una parte e del razzismo dall'altra, ma fa vedere come non siano soltanto dei fenomeni storici che a un certo punto abbiamo riconosciuto e abbiamo fatto, tra virgolette, finire perché erano sbagliati quel punto di vista, ma anche se ne riconosci la base sbagliata, base ideologicamente connotata, comunque hanno degli effetti sulla quotidianità. le persone. E quindi questo secondo me è un aspetto interessante, che non basta dire no al razzismo, no alla discriminazione religiosa, ma per fare un vero cambiamento sociale ci deve essere un impegno attivo, perché implicitamente le strutture sociali nelle quali siamo immersi sono intrise di capitalismo, di razzismo e di discriminazione. Quindi il discorso è proprio vedere come qualcosa che è successo magari anche secoli fa, come la nascita della scienza moderna, ha ancora degli effetti su come è fatta la scienza oggi.